immagino un poco sbiadita l'eleganza di chi ha una ferita, non la mostra per dignità. Oh yeah. Forse riconosco un nome che farebbe a cuore. Forse riconosco un cuore che porta il mio nome. Certi gesti rimangono nel cuore, certi abbracci non hanno mai fine, no. Quanto amore, quanta bontà in voi. Certi sguardi sono sottintesi e mi tolgo io, non li ho mai resi. Quell'estate scalda così, yeah. Forse riconosco un nome. Mi abbraccia lui, dolce come fragole vedo lei, e mi ride ancora al sole. Sull'autostrada per un attimo con chi ci amava, le parole più dure agli sbagli, le carezze più dolci agli affanni, è un amore che non ho uguali mai. Non ho uguali mai. È un amore che forte come menta, dolce come fragole. La magia per amore vostro è mia, e io vivo qui fra menta e fragole, menta e fragole. Mente fragole, la magia per amore vostro è mia, e io vivo qui fra mente fragole, la magia per amore vostro è mia, e io vivo qui. Magia, per amore vostro mia, e io vivo qui tra mente.